succederà, prima o poi, che il mondo si accorgerà anche di noi. E succederà e capirai che forse ricevi più di quello che dai. Sguardi veri tra di noi, non ti ho cancellata mai. Solo adesso io vorrei averti qui. Dimmi adesso cosa fai, e quello che non mi hai detto mai, lascia perdere tutti quelli che non ti credono. Che freddo fa, stringiti un po', la sigaretta brucia tra le tue dita. Non fumo più, mi hai detto tu, anche se ho già capito la verità. Non sei mai cambiata tu, e nemmeno lo vorrei. Guardo il cielo e scopro che tu ci sei.